Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Diciannove, diciassette, trenta secondi in questo istante. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo lontano. I saluti vi vengono anche dalla squadra che è in redazione con me: Benedetta Acri, Riccardo Bucero, Guido Scotti e in regia c'è Carmelo Lauricella. Anche questa sera vi leggo le mail a nessunluogo@radio24.it. Potete commentare o fare domande via SMS al 349-238-6666. Poi siamo su Facebook, il profilo è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e infine Twitter @NessunLuogo24. Allora, questa sera in diretta qui dagli studi di Viale Monterosa a Milano, anche questa volta getteremo lo sguardo e l'orecchio soprattutto al di fuori dei nostri confini. Andremo nel cuore del Mediterraneo, l'avete sentito dal GR, andremo a Cipro per capire quali forze e quali attori si agitano al di là di questa tempesta finanziaria, del rischio fallimento. Perché Cipro è così importante per gli equilibri dell'intero Mediterraneo e quali attori stanno giocando questa importante partita? Prima però vorrei parlarvi di altro e vorrei riportarvi con la mente a quel 19 marzo di 10 anni fa. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Così, poco più di 10 anni fa, George Bush annunciava la sua guerra contro Saddam Hussein e quelle armi di distruzione di massa. Così Bush, con l'invasione dell'Iraq, avrebbe cambiato per sempre il volto del Medio Oriente. Spulciando in rete in questa settimana ho trovato vari articoli interessanti e anche gallerie fotografiche intriganti. Ce n'è una di una fotografa AP che trovate sulla nostra pagina Facebook del programma. Ma il più interessante l'ho trovato un articolo di Foreign Policy, lo trovate ancora sul sito foreignpolicy.com, che ha dato i numeri, 10 cifre per capire meglio questi 10 anni di guerra. Zero è il numero dei terroristi presenti in Iraq prima dell'arrivo delle forze americane nel 2003. È allora che nasce Al-Qaeda Iraq, che attacca militari e civili e dal 2013 opera anche in altre regioni del Medio Oriente. 2 più 2 sono i fronti su cui la guerra in Iraq va a impattare. Da un lato, Iran e Nord Corea, che non si fanno più intimorire ma proseguono i programmi nucleari. Dall'altro, si assiste a un prolungamento del teatro afghano con l'estensione del conflitto al vicino Pakistan. Ottavo, è il posto occupato dall'Iraq nella classifica dei paesi più corrotti al mondo. 2,5 e 10 micron. Le dimensioni delle polveri tossiche inalate dai soldati e dalla popolazione in Iraq, ma anche in Afghanistan. I militari di ritorno in patria presentano molte più malattie respiratorie e cardiovascolari rispetto ai veterani di altri conflitti. 84. I psichiatri che lavorano in Iraq per una popolazione di oltre 31 milioni di persone. I medici sono circa 22.000. 190.000. Il numero di persone uccise nel conflitto, secondo le stime più prudenti, per la maggior parte civili. La cifra comprende 4.488 soldati americani. 349. I suicidi nel 2012 di militari che hanno prestato attivamente servizio in Iraq. 2,5 milioni. Gli uomini e le donne americani impegnati nelle operazioni in Iraq ed Afghanistan. Più di 1,5 milioni sono già considerati dall'assistenza medica statunitense veterani e disabili. 1,7 trilioni di dollari. La cifra che i contribuenti americani dovranno pagare per coprire i costi del conflitto. E la quota è destinata a salire. 4 trilioni di dollari. Gli interessi accumulati sui prestiti per il conflitto iracheno fino al 2053. E questa è l'impietosa fotografia dei numeri snocciolata da Anita Crawford, docente di scienze politiche all'Università di Boston, che appunto ha scritto questo articolo per Foreign Policy. Ma io ho chiesto a un'esperta italiana, la professoressa Marcella Emiliani, esperta appunto di Medio Oriente, un bilancio di questi 10 anni e quale lezione gli Stati Uniti possano aver tratto da quella lunga e tragica avventura. Innanzitutto Portare la democrazia con le armi è un'impresa assolutamente improba, soprattutto in Medio Oriente, dove non esistono delle istituzioni solide di loro. Quindi diciamo che quello che hanno lasciato, sì, hanno sbarazzato il paese di un dittatore, ma hanno lasciato delle istituzioni deboli, e deboli soprattutto perché non è stato pianificato il dopo Saddam. Questo significa che si è lasciato campo libero ai settarismi, sia quelli religiosi sia quelli etnici, non si sono adeguatamente cementificati i confini. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si è lasciato infiltrare dentro l'Iraq ogni genere di terrorista che veniva dall'Afghanistan, attraverso la Siria, attraverso l'Iran. Non si è tutelata adeguatamente le comunità locali dagli influssi forti dei paesi vicini, sto parlando della comunità sciita nei confronti dell'Iran. Insomma, un panorama estremamente inquietante. Infatti vediamo che ancora oggi il terrorismo la fa da padrone in Iraq e il governo non ha il pieno controllo del territorio nazionale. Quindi se dovessimo tracciare un bilancio, come dire, la bilancia pende decisamente verso il negativo, verso il segno meno? Purtroppo sì. Poi naturalmente c'è sempre qualcuno che dice: ma ti piaceva Saddam Hussein? Ovvio che non mi piaceva Saddam Hussein. Però diciamo che allora, se si voleva pianificare un'operazione militare, si doveva pianificare con altrettanta accuratezza anche il post Saddam Hussein, perché in questa maniera si è lasciato alle forze campo pieno per far vincere il più forte. E in questo caso abbiamo visto scendere in campo tutte le brigate per parte sciita, tutte quelle che venivano dall'Iran, per parte sunnita invece addirittura infiltrazioni di Al-Qaeda e di quant'altro proveniente dall'Afghanistan. Ecco, professoressa, in chiusura si è parlato, diciamo, del post, cioè la cosiddetta exit strategy, che da un lato mi sembra che la lezione irachena in Afghanistan non sia stata recepita, perché l'annuncio del ritiro in tempi poi così rapidi fatto recentemente da Obama sta lasciando il paese in varie regioni in situazioni molto molto cruciali. E poi mi sembra ci sia la stessa situazione in Mali, che forse è una regione, diciamo, che più distante dai suoi interessi, però dove mi sembra che si intervenga in fretta e furia, e poi appunto il punto di domanda è sul poi. Esatto, ma il punto debole di questo intervento è proprio questo, con una differenza che è abissale: in Afghanistan e in Mali c'è comunque un concerto di forze che intervengono, mentre l'Iraq, diciamo che gli Stati Uniti se lo sono gestiti per forza, perché nessuno li ha voluti seguire da soli. La situazione non è che sia migliore in Afghanistan, intendiamoci, ma almeno dietro c'è l'intera NATO, c'è l'Europa che partecipa in maniera fattiva ai programmi di ricostruzione. Certo, è anche quello un territorio estremamente difficile da governare, ma almeno si è avuta una autorità diffusa sul territorio, non solo militare. In Iraq no, cioè in Iraq si è proceduto a dire: bene, allora gli Stati Uniti decidono che questo è un paese che, siccome ha una maggioranza sciita, poi dopo vengono i sunniti, poi dopo vengono tutti gli altri, si è andati col criterio del bilancino, si è deciso che la democrazia era qualcosa di proporzionale in base alle varie comunità etniche, e in questa maniera si è cementata una struttura di fratture che nessuno ricongiungerà più, e gli Stati Uniti se la sono gestiti bellamente da soli questa roba. Lasci perdere che piccoli contingenti militari sono arrivati da tutto il mondo, qui quello che è stata una testa politica. Era la professoressa Marcella Emiliani, esperta di Medio Oriente e autrice, fra l'altro, di una storia del Medio Oriente in due volumi, edito da La Terza, e il secondo volume è uscito da qualche mese. 349-238-6666 se volete commentare, gentili ascoltatori, pure Twitter Nessunluogo24, Facebook Nessunluogo Lontano, trattino Radio 24. Adesso, come anticipato, voltiamo pagina e andiamo a Cipro. My dignity now is intact. La mia dignità è intatta. Sono fiero della mia gente e credo che adesso tutti noi ci siamo uniti come un uomo solo. E la signora Merkel deve capire che i ciprioti hanno la loro dignità. Mrs. Merkel have to understand Cypriot has dignity. We are the new generation. Noi siamo la nuova generazione e abbiamo dei sogni. E vogliamo combattere per i nostri sogni, non vogliamo essere schiavi. Noi odiamo l'Europa. Sono ladri patentati. Vogliono prenderci i nostri soldi e distruggere la nostra nazione perché noi amiamo i russi. Questi gli umori, la rabbia, la frustrazione dei ciprioti in queste ore, ma noi subito dopo la pausa ripercorremo un po' a grandi linee quella che è stata la storia di quest'isola. Intanto rispondo al volo a un sms che è arrivato al 349-238-6666 relativamente all'intervento evidentemente di Marcello Emiliani, e l'ascoltatore dice: ma perché non dite che era meglio Saddam? Siete solo anti-americani. Pensate che casino se rimaneva Saddam. A me sembra, gentile Riccardo, che è l'ascoltatore, che il bilancio della Marcello Emiliani sia stato non solo molto puntuale ma anche molto lucido. Si è esportato un modello di democrazia, chiamiamola così, occidentale, intanto col suono delle armi, su paesi, su realtà che lo vediamo anche in Afghanistan, quando la NATO, l'ISAF, cerca di esportare il modello di formazione, di addestramento dei militari, tutto ritagliato sull'Occidente, che lì non funziona. È un mondo lontano, è un mondo diverso, questo va tenuto assolutamente in considerazione. Quanto al fatto di essere anti-americano, non sono anti nulla, cerco solo di raccontare i fatti e distinguere i fatti dalle opinioni. Nessun luogo è lontano. You ready? To the day that I die, hands up high to the sky, it's time to ride. To the day that I die, flag up high to the sky, this is my. Ancora buona serata, gentili ascoltatori. Cipro al centro della puntata di Nessun Luogo Lontano di questa sera, mentre l'ANSA batte in questo esatto istante Cipro, ok dalla Troica al prelievo del 20% sui conti di oltre 100.000 euro, prelievo forzoso sui depositi bancari nella Banca di Cipro e del 4% su quelli per lo stesso ammontare nelle altre banche, lo ha riferito la TV statale cipriota. Quindi insomma la vicenda finanziaria e bancaria continua a dipanarsi, ma noi in realtà vogliamo occuparci di altro, degli aspetti più nascosti di questa vicenda. Lo facciamo con Federico De Renzi, esperto dell'area, collaboratore fra altre cose di Limes. De Renzi, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo. Buonasera a voi e grazie per la diretta. E buonasera anche a Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore, che è a Nicosia, se non erro. Roberto. Sì, buonasera a tutti, sono a Nicosia. Eccolo, allora partiamo telegrafico da De Renzi. Vorrei focalizzare l'importanza geostrategica dell'isola, che lo è anche storicamente. Posso sintetizzare, De Renzi? Chi controlla Cipro controlla il Mediterraneo, se non tutto, almeno quello orientale? Assolutamente sì, il controllo dell'isola è fondamentale da migliaia di anni per il controllo del Mediterraneo, tanto più in questi ultimi anni in cui le questioni legate alle risorse sia energetiche che diciamo così naturali sono fondamentali, insomma. E poi entreremo nel dettaglio di quelle che sono queste risorse, i giacimenti di gas, gli interessi anche militari. Andiamo a Nicosia. Roberto Bongiorni, che aria tira in queste ore lì nella capitale? L'aria che tira è più tesa degli altri giorni, è peggiorata. I ciprioti cominciano ad essere seriamente preoccupati. Anche perché al di là di questo prelievo poi ci sono dei comunque problemi quotidiani che cominciano a venire a galla, come benzina che scarseggia, pompe che funzionano solo al cash, supermercati che cominciano ad avere pochi beni perché si devono pagare in cash, insomma tira un'aria di preoccupazione. E tra i ciprioti sta crescendo quella sorta di euroscetticismo che già prima non era basso, insomma, anche perché Cipro è un paese, è uno stato particolare, ha sempre vissuto un po' un una via di mezzo. Possiamo dire che ha sempre tenuto i piedi in due scarpe, vicino alla Russia ma vicino, sì, all'Europa. Storicamente ha avuto sempre a che fare con più invasori. Sull'isola dove hanno tappato i turchi e di qua ci sono i ciprioti. Insomma, è una situazione comunque piuttosto tesa. Questa Cipro, che è quasi un'erma bifronte, no? Sospesa tra Mediterraneo e Medio Oriente, tra Turchia e Grecia e tra adesso Unione Europea e Russia, vediamo un attimo di fare il punto. Cipro è un'isola del Mar Mediterraneo orientale. Conta 800.000 abitanti, è terza per estensione dopo Sicilia e Sardegna ed è situata 70 km a sud dalla Turchia e circa 100 km dalle coste israeliane e libanesi. Protettorato inglese fin dalla fine dell'Ottocento e da sempre abitata da greci e turchi, Cipro ottiene l'indipendenza nel 1959. La neonata Repubblica non riappacifica però gli abitanti. Per raffreddare i continui scontri tra le due parti, l'ONU interviene dal 1963, creando la cosiddetta Linea Verde, una fascia demilitarizzata che taglia l'isola a metà, dividendo la parte a maggioranza turca da quella a maggioranza greca. Nel 1974 la Turchia invade la parte nord dell'isola in reazione a un tentato colpo di Stato sostenuto dalla Grecia dei colonnelli. Nasce così l'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. L'isola è definitivamente divisa in due stati e la Linea Verde diventa un confine invalicabile. Ad oggi, Nicosia è l'unica capitale al mondo ad essere percorsa da un muro. Cipro è probabilmente l'area più militarizzata del Mediterraneo. Sull'isola sono presenti due basi militari britanniche che coprono il 3% del territorio e che godono di un regime di sovranità, dove sono attualmente impiegati 3.500 soldati, e numerose basi turche al nord che ospitano tra i 30 e i 40.000 soldati. Le acque attorno a Cipro sono attualmente presidiate dalla flotta russa, turca ed israeliana, senza contare i transiti nell'area della quinta flotta navale americana. Dal 2011 i numerosi presidi militari sono motivati anche dalla scoperta di enormi riserve di gas naturale nei fondali a est delle sue coste, nelle acque contese dai due stati. Si parla di 3,5 milioni di miliardi di metri cubi di gas naturale che potrebbero soddisfare il fabbisogno mondiale di gas per un anno intero. Gas su cui hanno già puntato gli occhi anche Stati Uniti, Israele e Russia. Proprio la Russia si è sempre più accreditata nell'ultimo decennio come interlocutore privilegiato sull'isola. Dalla fine dell'Unione Sovietica, circa 40.000 russi, il 5% della popolazione totale di Cipro, si sono trasferiti nella parte meridionale dell'isola. Massiccia è anche la presenza di capitali russi, il cui ammontare è stato stimato dall'agenzia di rating Moody's in circa 31 milioni di dollari, che Cipro riesce ad attrarre grazie ad un basso costo della vita e ad un regime fiscale favorevole. Interessi nazionali, sfruttamento delle risorse energetiche ed utilità di una presenza militare nell'area sono dunque le ragioni che spiegano il ruolo di primo piano giocato dalla Russia nella corsa al salvataggio di Cipro dal rischio default, nonostante l'isola faccia parte della UE dal 2004. Perché l'obiettivo della puntata di questa sera di Nessun Luogo è Lontano è, come dire, attenuare un po' le luci, i riflettori su questa tempesta finanziaria bancaria che si è abbattuta su Cipro e accendere invece quelli sul ruolo geopolitico che abbiamo accarezzato in questa scheda che avete sentito. Roberto Bongioni, fra l'altro noi ci siamo sentiti alcuni giorni fa, mi riferivi di rumors e sussurri, non so quanto confermabili, di insistenze russe sul voler posizionare una base militare a Cipro, fra l'altro in previsione di una possibile perdita, perché lo sappiamo, il regime di Assad, come dire, è orologeria, della famosa base di Tartus. Sì, sono state voci di corridoio che però poi sono state anche pubblicate da alcuni quotidiani ciprioti, peraltro anche alcuni piuttosto seri, i quali riferivano che la Russia avesse chiesto come contropartita non solo la base militare, ma pure l'utilizzo dell'aeroporto per la sua aviazione militare, e non solo, anche più che i contratti del gas, e poi vedremo perché la Russia è interessata o non è interessata, avrebbero chiesto una partecipazione alla costruzione del giacimento di gas di quel fatto naturale, strategico, insomma avrebbe fatto delle richieste un po' eccessive, diciamo. Che il governo di Cipro non poteva permettersi, tutto sommato, erano un po' troppo esagerate rispetto a quanto poi faceva. Comunque confermo, quindi l'interesse della Russia è questo. Per quanto concerne il gas, la Russia vede con preoccupazione i canali alternativi di approvvigionamento in termini geopolitici che l'Europa sta sviluppando per i prossimi anni. L'Europa dipende dal gas russo, però sta aprendo il corridoio sud dal Mar Caspio con o il Nabucco o il TAP. E questo gas del Mediterraneo, Cipro dice che lo produrrà nel 2018, forse un po' ottimista, comunque potrebbe essere apportare un contributo per affrancare l'Europa dal giogo energetico della Russia. Allora, se la Russia riesce un minimo a controllarlo, riesce anche a controllare di più le sue esportazioni e non perderci troppo, ecco. E così abbiamo anche chiarito quali sono, come dire, gli appetiti di Mosca, che non è solo questione della piccola Russia o piccola Mosca come viene chiamata questa grossa comunità di 40.000 russi che vanno a fare le vacanze lì danarosi e al caldo. De Renzi, estremizzo o siamo di fronte a una guerra per l'energia, visto appunto questi giacimenti che fanno gola anche agli israeliani che stanno iniziando a esplorare lì in zona, fanno gola un po' a tutti? Si può forse parlare proprio di una vera guerra economica. Sicuramente dal settembre del 2011 c'è stata un'intensificazione di questa guerra, se vogliamo, di questo scontro tra Israele in particolare e attraverso Cipro Greca e la Turchia. Questo per il semplice motivo che non essendoci un accordo condiviso sullo sfruttamento delle risorse nel Mediterraneo orientale, non essendoci neanche una visione comune per quanto riguarda le zone economiche esclusive, la Turchia si è sempre opposta a eventuali posizioni unilaterali da parte di qualsiasi attore della regione. Ecco, abbiamo citato appunto Unione Europea, Russia, Israele, c'è anche Gaza che, come dire, è uno scenario sulla quale il ruolo più o meno militarizzato di Cipro va a impattare, perché dobbiamo ricordare le flottiglie, no, che tentarono di sbarcare a Gaza. Qua siamo a 70-80 km dalle coste, cioè quando diciamo che Cipro è veramente un ponte, no, è sospesa tra Mediterraneo, tra Europa e Medio Oriente, intendiamo proprio questo. Roberto Bongiorni, tu hai fatto anche una capatina nella parte turca, no, di Cipro, perché dobbiamo ricordare, si parla di Cipro ma sono due, col muro, con l'unica capitale al mondo divisa da un muro, e lì cosa succede nella parte turca? C'è una qualche forma di osmosi oppure sono totalmente separate e sembra che nulla stia accadendo dall'altra parte del muro? Ma ci ho fatto due capatine perché poi alla fine sono tornato oggi pomeriggio. Ecco. Tutto sommato questo muro poi non è altro che una sorta di fila di case distrutte quando ci fu l'invasione, i combattimenti, con del filo spinato. L'ingresso è molto facile, si esibisce un documento, timbrano, danno un foglietto e si rientra. Il clima è davvero molto tranquillo, certo le differenze tra le due Cipro, ma anche tra le due Nicosia, sono rilevanti. Ma non ho incontrato un clima di, possiamo dire, felicità da parte dei turchi perché le cose vanno male nell'altra parte e viceversa. Sono due mondi separati che vivono vicino, anche per i stessi ciproti comunque è molto facile andare nell'altra parte, quindi tutto sommato è un'isola divisa, ma non è la divisione tra israeliani e palestinesi o tra altre popolazioni, loro possono anche circolare abbastanza liberamente. Ecco, fra l'altro, come mi raccontava De Renzi, e abbiamo seguito il suo suggerimento, poi sentiremo anche una musica, il panorama musicale cipriota è estremamente vitale, e se, come dire, tra la parte turca e la parte greca non c'è poi tutta questa osmosi, bene, sulla parte musicale invece vi sono anche frizzanti collaborazioni. Nessun luogo è lontano. Theodulos Vakanas e Mehmet Ali Sanlikol, sicuramente sbaglierò la pronuncia, si sono messi insieme a fare questo disco, e vi dicevo appunto del panorama musicale cipriota, che qua diventa insomma sincretico e mette definitivamente d'accordo le due popolazioni dell'isola, casomai ce ne fosse stato bisogno. Ancora con Federico De Renzi. Roberto, buongiorno. Federico De Renzi, esperto dell'area, scrive fra gli altri: per l'IMES ho una domanda da $1 milione. Scrutare nella sfera di cristallo e al di là di quello che accadrà dal punto di vista finanziario e bancario, perché le due cose sono abbastanza scisse, che ruolo può giocare Cipro nei prossimi mesi o nei prossimi anni? Lo vedi più legato alla Russia o più tirato per la giacchetta dall'Unione Europea? Io darei una terza risposta, se proprio uno deve guardare nella sfera di cristallo. Sì. Per quello che è stato ieri dichiarato dal ministro per gli affari europei Egemen Bağış, forse è tirato più per il bavero della giacca dalla Turchia a questo punto, visto che il ministro si è espresso favorevolmente riguardo a una possibile richiesta da parte di Cipro greca, qualora questa dovesse uscire dalla zona euro, ad utilizzare la lira turca che è in uso a Cipro turca. Quindi sembra che i turchi anche in questo vogliano cercare una soluzione negoziale per la riunificazione dell'isola, facendo la parte del leone. Ecco, non solo navi da guerra, non solo militarizzazione del Mediterraneo orientale in risposta alle, chiamiamole, provocazioni greco-cipriote via Israele, ma anche una mossa strettamente economica, insomma. Insomma, vedremo se la terza via, quella turca, sarà quella che Cipro potrà imboccare. Grazie a Federico De Renzi per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E siamo quasi in chiusura, allora rubo alcuni minuti ancora a Roberto Bongiorni prima che tu vada a scappare, credo, di fronte nuovamente al Parlamento cipriota. In tutto questo gigantesco puzzle, che si compone di banche, si compone di valuta, si compone della troica europea, si compone di militari britannici che sono presenti sull'isola, e di flotte russe che ormeggiano al largo, e finché Assad non cade, insomma, per il momento stanno lì. E abbiamo parlato di gas. Io ho come l'impressione che, data la vastità del giacimento, sia veramente quella la grande leva, prima economica ma poi anche geopolitica, che andrà a muovere il destino dell'isola. Sei d'accordo? E se sì, ti chiedo una previsione anche a te. Sì, Giampaolo, diciamo che non sentivo bene l'intervento di De Renzi, quindi non vorrei essere ripetitivo, però le potenzialità sono molto grandi, però un conto è sfruttarlo, produrlo, e un conto è localizzare il gas. Sembra che Cipro sia un po' troppo entusiasta, sta cavalcando l'onda e voglia vendere un po' la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, nel senso che vuole mettere dei bond per finanziarsi sui futuri giacimenti. È un gas importante, Cipro può diventare un hub commerciale proprio per la sua posizione strategica, ma la regione è abbastanza tesa, Israele e Libano sono due stati in guerra. Detto ciò, il gas è sicuramente importante, Cipro sta accelerando le gare. Ricordo che Eni e Total si sono aggiudicati i contratti di esplorazione per 5 blocchi e a maggio ci sarà un'altra gara. Vedremo se ci sarà così tanto gas come sostengono i geologi, e soprattutto se sarà conveniente tirarlo su, a che profondità si troverà e quale sarà il prezzo di mercato, insomma. Quindi c'è tutto un cocktail di fattori che rende il gas una grande promessa per lo sviluppo di Cipro, però c'è dall'altra parte anche estrema cautela, almeno dagli altri paesi, non dai ciprioti, che in questo momento vedono nel gas la panacea di tutti i mali. Sì, è la grande ancora. È la grande ancora di salvezza. Vedremo come evolverà questa crisi. Grazie a Roberto Bongioni, Sole 24 Ore, inviato a Cipro. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie molto. Insomma, questi gli attori in campo. Spero di aver dato strumenti in più agli ascoltatori per comprendere quello che sta accadendo a Cipro. Voglio voltare decisamente pagina e parlarvi di quello che ormai chi mi segue conosce è un mio pallino. Repubblica Democratica del Congo. Perché? Perché il generale Bosco Ntaganda, che ai più non dirà molto, ma insomma un signore della guerra ricercato per crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale, ebbene, dopo essere stato fuggiasco per mesi nelle foreste e aver fomentato una nuova ribellione, ebbene, è nella Corte Internazionale all'Aia e sarà giudicato. E questa sì è una notizia. Ricapitoliamo però insieme gli ultimi eventi in Congo e poi commentiamo. La Repubblica Democratica del Congo, anche nota come Congo Belga o Congo Kinshasa dal nome della sua capitale, è il paese francofono più popoloso dell'Africa centrale. Tra il 1998 e il 2003, il Congo è stato al centro di quella che potrebbe essere definita la guerra mondiale in Africa e che l'ha lasciato nella morsa di una crisi umanitaria. I 5 anni di conflitto hanno visto le forze governative sostenute da Angola, Namibia e Zimbabwe scontrarsi con i ribelli sostenuti da Uganda e Ruanda. Dopo diverse guerre e ripetuti conflitti, nell'agosto del 2008 scoppiano pesanti scontri in Kivu, a est del paese, tra le truppe dell'esercito governativo e i combattenti fedeli al leader ribelle Tutsi, Laurent Nkunda, appoggiato non ufficialmente da Ruanda. Spodestato da Bosco Ntaganda, Nkunda viene arrestato nel gennaio del 2009 in Ruanda. Il conflitto si va così attenuando e le milizie del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo, guidate da Nkunda, vengono reintegrate nell'esercito governativo congolese e riassegnate negli stessi luoghi nei quali già combattevano. Lo scorso aprile alcune centinaia di soldati hanno disertato l'esercito del Congo e si sono uniti agli insorti di etnia Tutsi, guidati da Bosco Ntaganda, dando vita a un nuovo gruppo di ribelli denominatosi M23. Dal protocollo di pace firmato il 23 marzo 2009, ma da questi considerato fallimentare. Infatti, dopo l'emissione di mandato di cattura della Corte Penale Internazionale dell'Aia nei confronti di Ntaganda, e dopo che il capo del governo generale del Congo, Joseph Kaliba, ha fatto intendere che l'avrebbe consegnato alla giustizia, il leader dei ribelli ha disertato con un manipolo di fedelissimi nascondendosi a nord di Goma, la capitale della provincia al confine con l'Uganda. Proprio in questi giorni, le forze regolari della Repubblica Democratica del Congo e i caschi blu della missione delle Nazioni Unite nell'ex Zaire hanno attaccato con elicotteri le postazioni dei guerriglieri del gruppo M23, ancora attestati intorno a Goma. E poi gli eventi sono di cronaca più recente. L'M23 si è spaccato per un dissidio interno. Bosco Ntaganda, detto anche Terminator, così lo chiamavano i compagni di battaglia, insomma il nome che è tutto un programma, si è dato alla macchia, si è rifugiato nel parco del Virunga con alcuni suoi fedelissimi e poi evidentemente l'aria si faceva troppo pesante. È scappato in Ruanda circa una decina di giorni fa e io devo confessare che mi aspettavo che avrebbe fatto la fine di Laurent Nkunda, che lui stesso tradì solo due anni prima, e me lo immaginavo in una villa ruandese a giocare a tennis. Ebbene no, si è presentato all'ambasciata statunitense, ha chiesto di farsi consegnare all'AIA. Ebbene, davanti alla Corte Penale Internazionale comparirà proprio martedì prossimo. Insomma, staremo a vedere. Siamo in chiusura, quindi non mi resta che ringraziare Benedetta Acri, Riccardo Buccero, Guido Scotti in redazione, Carmelo Lauricella che ha dato musica e ritmo alla puntata e voi cari ascoltatori per avermi seguito in questo altro piccolo viaggio di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è sabato prossimo, ore 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.